Com'è che si inventa una lingua? Ma è una buona domanda. In realtà dipende da quello che si vuole fare. Se volessimo fare una partizione, la più generale possibile, si potrebbe dire che una lingua può essere inventata per gioco o per uno scopo. E a seconda delle due direzioni che si prendono ci sono ricette diverse, ovviamente. Ah, in che senso ci sono ricette diverse? Dunque, nel caso, iniziamo con le lingue inventate per gioco. In questo caso ci si basa fondamentalmente sul potere evocativo che hanno i suoni delle lingue straniere. A tutti sarà capitato di sbagliare mettendo su un DVD e di sentire Via col vento in aramaico. Beh, forse in aramaico no, però... Beh, non a tutti strana. Tutti, non a tutti tutti, dai. Beh, insomma, forse qualche linguista, sì. Diciamo, l'effetto evocativo della lingua è molto potente. È molto interessante notare che spessissimo è stata proprio l'invenzione di una lingua che ha fatto da propulsore della letteratura. Forse il capostipite di tutte queste esperienze è quella di Tolkien. Tolkien era anche egli un linguista, ha iniziato con inventare una lingua elfica e poi ha costruito dietro questa lingua una mitologia, una filologia addirittura con altre lingue imparentate con queste e poi tutta la saga che tutti noi bene conosciamo.